seconda Mishnah del primo capitolo del trattato di Megillah spiega quello che abbiamo detto nella prima Mishnah, che eventuali date possibili per la lettura del Megillah vanno dall'11 al 15 del mese di Adar. Ora la Mishnah entra appunto nello specifico di queste date. Keitzad, in che maniera potrebbe avvenire questo? Allora la Megillah, la Mishnah descrive: Chal li yot, chal significa cade di, capita di, se capita il giorno di Purim, Yom Arba Asar, quindi il giorno 14 del mese di Adar, se capitasse Basheni, significa di lunedì, Yom Sheni, allora lunedì è anche un giorno di lettura del Sefer, è anche un giorno in cui gli abitanti dei villaggi vengono in città. Abbiamo detto il lunedì e il giovedì. Gli agricoltori, eccetera. Quindi, se fosse lunedì il giorno 14, allora Kefarim, i villaggi, va a Yarot Gedolot e le città grandi normali, Korin Bo Bayom, leggono la Megillah il giorno stesso di Purim, che è il 14 di Adar, che viene di lunedì. Quindi tutti leggono lo stesso giorno, e meno che Umukafot Choma, le città cinte dalle mura dai tempi di Yoshua Bin Nun, chiaramente come sempre le Machar leggono l'indomani, martedì, che è il 15, come fanno sempre. Abbiamo spiegato l'altra volta. Chaliyot Bashelishi o Barevi, se il giorno di Purim, cioè il 14, dovesse capitare quando? Martedì o mercoledì. Ok? Quindi sono giorni in cui quelli del villaggio non vengono in città. Allora cosa fanno quelli del villaggio? Kfarim makdimim li yom haknisa. Quelli del villaggio anticipano la loro lettura della Megillah al lunedì precedente, che in questo caso sarebbe il 13 di Adar, se martedì è il 14, o il 12 di Adar, se mercoledì è il 14, ok? Quindi già abbiamo visto com'è possibile leggere la Megillah il 12, il 13, il 14 e il 15, chiaramente, per le città cinte dalle mura. Un mukafot e vayorot gedolot korin bobayom, le città grandi, che non devono venire in città, che stanno già in città, leggono il giorno stesso, che sia di martedì o di mercoledì, sempre fanno il 14. Un mukafot choma le machar, e di nuovo quelle cinte dalle mura, dai tempi di Yoshua, fanno il loro giorno di Purim, che è l'indomani, cioè il 15, in quel caso sarebbe mercoledì o giovedì il 15. Ok? Mentre invece, ora, se il 14 di Adar, il giorno che normalmente sarebbe Purim, viene di giovedì, Chali Yot, se dovesse capitare Bachamishi, il giorno giovedì, che di nuovo è un giorno in cui vengono gli agricoltori dai villaggi in città, allora anche qui, Kefarim, come abbiamo detto riguardo lunedì, Kefarim va Yarot Gdolot Korin Bo Bayom, i villaggi e le città grandi leggono la Megillah il giorno stesso, i villaggi venendo in città leggono insieme a quelli della città il giorno stesso, che è giovedì, e il giorno 14 di Adar di Purim. Ok? Umukafot Choma, e le città cinte dalle mura leggono le Machar il giorno venerdì, che è l'indomani, 15 di Adar. Se però il 14 di Adar dovesse venire di venerdì, Chali Yot Erev Shabbat, se la vigilia dello Shabbat venerdì è il 14 di Adar, allora in quel caso Kfarim Makdimin li Yom Aknisa, i villaggi anticipano al giorno in cui entrano in città, quindi il giorno precedente, che è giovedì, in questo caso sarebbe il 13. Vayarot Gdolot Mukafot Choma Korin Bobayom. E qui la novità è che sia le città normali, grandi, che le città cinte dalle mura, che normalmente leggono il 15, visto che in questo caso il 15 sarebbe Shabbat, quelli delle città cinte anticipano al venerdì e leggono insieme alla città normali, alle città normali di venerdì. Perché non si legge la Megillah di Shabbat. Per quale motivo non si legge la Megillah di Shabbat? Chissà. Ci possiamo arrivare? Forse. Abbiamo studiato cose simili riguardo altre mitzvot, riguardo lo shofar. Quella più... fa, ma mi è devistato. Ok, allora il motivo per cui non si legge la Megillah di Shabbat e il motivo per cui non si suona lo shofar di Shabbat oggigiorno è perché c'è una gzeirah, un decreto dei Chachamim, che per paura, per timore che qualcuno Trasportano. dovesse Ah, trasportare lo shofar o la Megillah di Shabbat per farsela spiegare o farsela aggiustare, eccetera, allora farla è sentire vietato qualcuno. fare la Megillah di Shabbat. Di conseguenza, quelli che avrebbero letto il 15, che quest'anno di cui parliamo, verrebbe di Shabbat, anticipano a venerdì insieme alle città normali. Ok? Perché non possono posticipare al 16, quelli delle città, domenica è più facile, no? C'è un motivo specifico che sarà spiegato nella Mishnah successiva. Ok? Chal liyot ba-Shabbat. Se il giorno di Purim normale, quindi il 14 di Adar, viene proprio di Shabbat, ok? Questo stiamo parlando solamente all'epoca in cui si santificavano i mesi, mese per mese, secondo la visione della nuova luna da parte di testimoni validi e il fissare la santificazione del mese attraverso il Sanedrin, perché solo allora poteva capitare Purim di Shabbat. Adesso non posso. Nel nostro lunario, il sistema esclude questa possibilità, che Purim potesse venire di Shabbat, così come esclude diverse cose che tecnicamente sarebbero quasi impossibili, come per esempio Shabbat e Kippur uno dopo l'altro, ok? O Purim di Shabbat, queste cose nel sistema del lunario che noi abbiamo non possono accadere, ma potrebbe accadere in caso in cui si fissa il mese secondo la visione della nuova luna, allora Purim avrebbe potuto essere di Shabbat. Se dovesse venire di Shabbat, allora Kfarim, Vayarot Gedolot, le città piccole, i villaggi e le città grandi, Makdimin, anticipano non al giorno precedente che è venerdì, ma Vekorin li Yom HaKnisa, anticipano al giorno dell'entrata, quindi a giovedì, i villaggi e le città grandi insieme, che sarebbe il 12 di Adar, perché Shabbat viene il 14, che visto che le città grandi anticipano, chiaramente, leggono, già che anticipano di 2 giorni, così anche quelli dei villaggi possono fare nello stesso giorno come loro. Mentre invece, o Mukafot Choma, le città cinte dalle mura, quando lo fanno? Le Machar, domenica, che è il loro giorno normale, il 15. Non hanno nessun motivo di spostarsi. Quello è il giorno in cui avrebbero fatto comunque Purim, il 15. Mentre invece, se il 14 venisse di domenica, Chali Yot Be Achad HaShabbat, scusa, Achar HaShabbat, il giorno dopo lo Shabbat, quindi domenica, Yom Rishon, allora di nuovo, Kfarim makdimin li yom haknisa, i villaggi anticipano al giorno dell'entrata, che sarebbe giovedì. Che giorno del mese sarà giovedì se il 14 è domenica? 14 12 12 no, sarà l'11. Ecco l'11 che abbiamo detto Ah, nella ecco Mishnah perché era l'11. precedente. L'11 esiste quando Per questo Purim viene motivo. di domenica, il 14 viene di domenica, i villaggi anticipano al primo giorno di rientro possibile, che è giovedì, che è l'11. 11 giovedì, 12 venerdì, 13 Shabbat, 14 domenica. Il Perché faccio andare indietro dove non sono ancora stati arrivati primo che l'11. arrivano quando vanno indietro è Che il mo utile? 11, Aspetta. quindi la prima data possibile è l'11. Sì, Perché ci sei? perché è il giorno di No, rientro, il giorno che entrano in che città, entrano abbiamo in città, spiegato. infatti. No, sì, scusa. Ok? Vayarot Gedolot Korin Bobayom, le città grandi, che Purim viene di domenica il Ancora 14, 11. leggono il 14, non hanno nessun motivo di spostare, e chiaramente è uguale anche le città cinte dalle mura, Mukafot Choma, le città cinte dalle mura leggono le Machar il giorno successivo, che è il loro giorno di Purim, il 15 di Adar. Posso chiedere una cosa, scusa? Ok? Sì? Se questi, diciamo, quelli che dei villaggi vengono, no? Sì? E anticipano la lettura, Sì? vengono in città, no? Sì. Perciò chi vive in città e ascolta la Megillah non è uscito d'obbligo. No, se non è il suo giorno, Ok. no. Un'altra cosa, la Gemara dice, la Gemara cita una Braita che dice: tutto ciò che abbiamo detto in queste due Mishnayot che abbiamo appena studiato, la prima e la seconda che abbiamo studiato oggi, per ciò che riguarda le variazioni delle possibili date di lettura di Megillah, tutto ciò è valido nel momento in cui le cose vanno come dovrebbero e Israele si trovano in Eretz Israel. Ah, certo. Significa che c'è il Bet HaMikdash, che gli ebrei sono in Eretz Israel, eccetera, eccetera. Ma oggigiorno non si legge la Megillah se non che nel suo momento. Quindi 14 e 15 per città Cinte, 14 per tutti gli altri posti. Uno dei motivi per cui questo è stato detto è per evitare una grande confusione che riguarda Pesach. Cosa c'entra Pesach? Allora, noi perché sappiamo. Un giorno più, un giorno meno. Esatto, noi sappiamo che esattamente un mese dopo Purim è Pesach. Sì. Perché Purim è il 14 di Adar, il 14 di Nisan, è la vigilia di Pesach. Se dovessimo leggere la Megillah in un'altra data, potrebbe qualcuno fare confusione e fare Pesach in una data sbagliata, mangiare Maaseiach Hametz a Pesach e così via, anticipare o posticipare, in ogni caso potrebbe mangiare Hametz e di conseguenza non si legge la Megillah se non che nel suo momento originale. Ok? Sì. Però ai tempi quando c'era la distinzione... C'era chi faceva Pesach in momenti diversi rispetto ad altri ebrei? No. No, no. No, no, no. Se solo per la Megillah. No, perché no? Ti spiego perché. Perché abbiamo detto, quando tutte le cose vanno come dovrebbero, significa anche che si annuncia il nuovo mese quando viene santificato dal Beit Din. Non si guarda il lunario, non si guarda Megillah. Quindi lo fanno di Pesach giusto. Si guarda, allora bisogna aspettare che arrivano gli agenti del Beit Din e ci dicono quando è Rosh Chodesh Nisan e così in questa maniera si sa quando è Pesach. Così funzionava. E quindi magari per quelli che abitavano fuori le mura, magari il tempo che passava da Purim a Pesach era minore di un mese. Si anticipavano i loro posti. Esatto, esatto, esatto, assolutamente. Era che Pesach era fisso, però se solamente Purim. Bravo, bravissimo. Variare, no? Sì. Okay. Però Pesach anche non era fisso, era fisso sì, da quando arrivano gli agenti del Bedin e mi dicono quando è stato santificato il nuovo mese. Pure, esplicitamente. Che cosa? Il giorno di Pesach. Certo, la data è quella, ma devi sapere quando è Rosh Chodesh, sì. E quello può cambiare, secondo la visione della nuova luna. Ok? Ok, allora nella terza Mishnah, la Mishnah dice così. Abbiamo parlato di città grandi e di villaggi. Come si definisce città grande e villaggio? C'è una definizione alachica. La Mishnah dice così. Eizohi irgdola. Come si definisce la città grande? Allora, uno pensa, si guarda quanti metri, chilometri quadri e quanti abitanti, eccetera, eccetera. Non è questo il criterio alachico. Ok? Qual è il criterio alachico? Stiamo parlando per una città grande, per ciò che riguarda la nostra comunità ebraica, la consideriamo una città grande. Vediamo. Eizohi ir gdola, qual è la città grande? Kol sheyeshba asara batlanim. Ogni città in cui ci sono 10 persone che sono batlanim. Cosa significa batlanim? Se uno lo legge così, sembra nulla facenti, disoccupati. Non è questo il vero significato di batlanim nella nostra Mishnah. I maestri spiegano nei Rishonim cosa significa. Ci sono un po' di diverse opinioni, però in generale cosa significa batlanim? Significa persone che lasciano la propria occupazione e rimangono tutto il giorno tutto il giorno o nel tempo di Tefilah, rimangono nel Beit HaKnesset. Significa, secondo come spiega Rashi e altri Rishonim, in questa città si fa turni di 10 persone a volta che si occupano di questioni comunitarie. Come il nostro amico che adesso va in comunità, lascia il suo lavoro, va in comunità, ci sono 10 persone che si dedicano, non devono essere gli stessi 10, possono essere a rotazione, che si dedicano a questioni comunitarie. Significa che è garantito il minyan, si parla anche del Beit HaKnesset, è garantito il minyan per 3 tefilot al giorno e ci sono 10 persone che sono dedicate alla comunità. Batlanim significa che mevatlim lasciano le proprie occupazioni per quei giorni e questo definisce una città grande. Grande, grazie per Ma Roma quanti ci devono essere più di una? Grazie per rendere Roma grande. Quanti? No, una così, 10 persone. Ma no, hai detto in base a quanti ci sono nella città. Ho detto non in base a quanti ci sono nella città. Ci devono essere questi 10 batlanim. Ah, solo questo? Sì, parla, non guardiamo se sono 1 milione di abitanti o 1000 abitanti. Pachot mikan, meno di 10 batlanim, harei zekfar. Noi lo consideriamo un villaggio, alachicamente. Quindi potrebbe essere una città grande come Roma, ma se ebraicamente parlando non ci sono asara batlanim, noi consideriamo un villaggio, kfar. Be'elu, ora la Mishnah insegna un'altra cosa molto importante. Per ciò che riguarda Purim, noi abbiamo detto, riguardo le città e i villaggi, che si anticipa la lettura della Megillah in alcune situazioni, come abbiamo spiegato nell'altra Mishnah, giusto? Ora, in altre situazioni dove qualcosa può capitare di Shabbat, noi siamo abituati che si posticipa. Vero? Se Tisha B'Av viene di Shabbat, quando facciamo il digiuno? Domenica. Domenica? Kippur, uguale. Kippur non può venire. Cioè, Kippur viene di Shabbat, si fa Shabbat, Kippur. Però non si sposta. Si digiuna Shabbat, non si sposta Kippur. Allora la Mishnah dice, normalmente per molte questioni dove dovesse venire di Shabbat, noi posticipiamo. Mentre invece nella Megillah noi anticipiamo. Vediamo la motivazione e vediamo i casi in cui si posticipa. Be'elu amru, riguardo queste situazioni qui delle date di Purim, dissero i maestri, makdimin, si anticipa la data della lettura, velome acharin, non si posticipa. Perché? E questo risponde anche a quello che hai chiesto nella Mishnah precedente, potrebbero fare tutti domenica, se fanno già le città cinte. No, non si posticipa perché? Perché c'è scritto nella Megillah, le kayem alehem et divrei hapurim ele, che gli ebrei hanno accettato su di sé le istruzioni riguardo a Purim e le norme, li otto sim di celebrare questi 2 giorni, velo yaavor, e non andare oltre. Velo yaavor significa letteralmente nessuno trasgredirà, cioè tutti gli ebrei hanno accettato di rispettare questa festività di Purim, senso letterale, ma senso allusivo la avor significa anche andare oltre. Veloia Avor, non andiamo oltre questa ultima data del 15. Quindi nel caso che serve anticipiamo, ma non posticipiamo. Ma in altre situazioni che non c'entrano con Purim, troviamo invece che si posticipa, sì. Quali sono questi esempi? La Mishnah li elenca. Aval, però, Zman Atzei Kohanim, il tempo in cui ci sono famiglie di persone che dedicano, regalano della legna per il Mizbeach, e ogni famiglia che faceva questo aveva una data specifica nell'anno in cui ogni anno loro portavano la legna da offrire al Beit HaMikdash, da usare quotidianamente per le Korbanot. Ok? È così che il Beit HaMikdash aveva la legna. Ora, quando una famiglia aveva questa data che fissa tutti gli anni che portavano la legna, per loro era un moed personale della loro famiglia. Era un giorno per loro semifestivo, dove portavano korbanot, non dicevano tachanun, e facevano un korban che chiamavano korban haetzim, il korban in onore della legna che hanno portato. E se questo giorno in un anno, per esempio, loro portano la legna ogni anno il 10 di Tammuz, 10 di Tammuz, quella volta è venuto di Shabbat, non portano la legna di Shabbat, chiaramente, al Beit HaMikdash. Quando portano? Devono posticipare, domenica. Questo è un esempio in cui si posticipa, Zman Atzei Kohanim. E si accavallano con quello dell'11? Va bene. Non è detto che ogni giorno dell'anno c'è qualcuno, però se fosse possono, non è un problema. Seconda cosa, l'esempio che vi ho detto prima, Tisha B'Av, il giorno di Tisha B'Av, e non solo Tisha B'Av, anche gli altri digiuni, se venissero di Shabbat si posticipa. Va Chagigah, Chagigah è un korban che si chiama Shalmei Chagigah, festivo, che si porta nei 3 regalim, nelle 3 festività, questo korban, se il giorno in cui normalmente lo si porterebbe è Shabbat, si porta il giorno dopo, perché per la Chagigah abbiamo 7 giorni di possibilità di poterlo portare, anche a Shavuot, che la festa di Shavuot è solo un giorno, comunque ha 7 giorni di recupero per le korbanot relative al Moed. Per questo noi non diciamo Tachanun in quei sette giorni, anche se non sono Moed, non è neanche Chol HaMoed. Il quarto esempio, Ve Hakel, la mitzvah di Hakel, vi ricordate che qualche anno fa era Hakel, ogni anno, ogni ciclo di conclusivo dell'anno sabbatico, quando finisce la Shemitah, l'anno sabbatico, il Sukkot successivo si festeggia una grande occasione che si chiama Hakel, e cioè tutto il popolo, uomini, donne e bambini, sono tenuti a venire al Beit HaMikdash e sentire alcuni brani della Torah da parte letti dal re, dal Melech Israel. Ora, questo normalmente avviene il secondo giorno di Sukkot, quindi quello che sarebbe in Eretz Israel il primo giorno di Chol HaMoed. Come esce Moed? Si dice l'Avdalah e c'è l'Hakel, il primo giorno di Moed di Sukkot. Se però Sukkot è venerdì e poi il Chol HaMoed è Shabbat, si posticipa a dopo Shabbat, non si anticipa, si posticipa, ok? In tutti questi casi la Mishnah dice me acharin, si posticipa velo makdimin, e non si anticipa. La Gemara spiega per quale motivo, perché non puoi anticipare una cosa a un momento in cui ancora non hai l'obbligo di farlo, cioè l'obbligo di Hakel scatta per esempio quando esce il primo giorno di Moed. Visto che è Shabbat non lo puoi fare, allora prendi questo obbligo e lo posticipi a dopo Shabbat. Ma prima che arriva quel giorno ancora non è scattato l'obbligo, allora non hai ancora la mitzvah di farlo. Non lo puoi tirare in questa direzione, diciamo così. Ok? C'è l'unica eccezione a Megillah allora. Oh, ora vediamo. Riguardo Tisha B'Av, per non anticipare una cosa negativa. Tisha B'Av è per una questione di punizione, di lutto, e non si anticipa una cosa così. Anzi, si spera che venga Mashiach intanto, e poi non ci sarà più Tisha B'Av. Non è che anticipi, ok, allora fammi fare il lutto. Se arriva il giorno lo fai, se non arriva lo posticipi. Anche riguardo Hakel, inoltre, anche non si possono portare i bambini piccoli, trasportare, perché Hakel c'è una mitzvah anche bambini piccoli. E ci sono anche altre motivazioni per Hakel. Allora, tornando alla Megillah, Afal pishe amru makdimin velome acharin, riguardo alla Megillah, anche nonostante se avessero detto i nostri Chachamim, come abbiamo appena citato, che si anticipa la lettura della Megillah nei casi dove è necessario, però non si posticipa, ok? Nonostante ciò, il giorno al quale si è anticipato. Per esempio, abbiamo dovuto anticipare la lettura della Megillah il 13 di Adar. Questo 13 di Adar diventa un giorno in cui si legge la Megillah, ma non diventa festivo per tutto come se fosse il vero Purim. Perché il vero Purim non si fa hesped vetaniot, non si fa un digiuno personale, o un digiuno comunitario per la pioggia, così via, o hesped, elogio funebre. Se viene di Purim un funerale, non si fa l'elogio funebre. Invece, se viene il giorno anticipato per la Megillah, si fa sì. Mutarin, è permesso hesped vetaniot, gli elogi funebri e i digiuni. Perché non era il giorno destinato. Cioè, esatto. Dall'altra parte, il giorno della lettura della Megillah comunque è valido per un matanot la'evionim. Per ciò che riguarda i doni ai poveri, che è una delle mitzvot che bisogna fare a Purim, si può fare anche nel giorno anticipato di lettura della Megillah. Le mitzvot riguardano la festa, quindi sì. Aspetta. Matanot le'evionim, sì. Ma mishloach manot, mandare doni di cibo ai nostri amici, e il mishte, la seudah, che queste due mitzvot sono legate, perché uno manda all'altro porzioni da mangiare durante la seudah, il mishte, queste solo il giorno stesso. Solo il 14 o il 15 nel caso delle città cinte. Non il giorno in cui si è letta la Megillah, se fosse anticipata. E quindi è Shabbat, se cade il Shabbat lo faccio il Shabbat, queste mitzvot? No. No. Sicuramente non Mishloach Manot non si fa di Shabbat. Infatti. Anche il Mishteh si fa solo in certi casi. Però, in casi normali, per esempio, come dicevo, se il 14 viene di martedì, ok? E i villaggi anticipano la loro lettura a lunedì, Ok? Allora, quel lunedì per loro non è che non possono fare esped. Possono fare esped. E devono dare Matanot Levionim quel giorno, o possono sicuramente, ma la, il Mishte e le Mishloach Manot devono fare il giorno 14, che è domani, che quello possono fare anche nel villaggio. Ok? Ora la Gemara spiega perché Matanot Levionim si fa sì il giorno in cui si anticipa la lettura della Megillah, se non è festivo, è solo una, diciamo, tra virgolette, una convenzione per la lettura, per consentire la lettura a chi non potrebbe un altro giorno. Perché Matanot Levionim sì? Dice perché i poveri aspettano la lettura della Megillah per ricevere Tzedakah. Sì. Sono abituati che quando si legge la Megillah ricevono Tzedakah, allora non si può negare questa cosa. Il giorno in cui c'è la Megillah c'è Matanot Levionim. Amar Rabbi Yehuda, disse Rabbi Yehuda, l'amico di William, ehi Matai, quando esiste tutta questa convenzione di anticipare al giorno lunedì o giovedì, 11, 12, 13, di Adar, la possibilità di lettura, ma com shenichnasin ba shenivichamishi, luoghi in cui sono abituati comunque quelli dei villaggi a venire in città i giorni giovedì e venerdì. E questi sono i giorni in cui abbiamo detto portano i viveri, e questi sono i giorni in cui c'è il Sefer e la gente viene al Tempio. E allora lunedì e giovedì si può anticipare, dove sono abituati comunque a farlo. Aval ma kom she en nichnasin lo bashini velo bachamishin, ma dove, là dove non c'è questa usanza, ci sono città e ci sono villaggi, ma non c'è questo tipo di... allora en korinota ela bismana, non la si legge se non che nel suo momento. Significa che quelli del villaggio dovrebbero comunque venire in città in un giorno in cui non sono abituati a venire, perché non vengono normalmente lunedì o giovedì. Allora vengono il giorno 14 di Adar, qualsiasi giorno della settimana sia. Lì non si anticipa più. Perché dal villaggio non si può spostare per qualsiasi motivo e non può... Non c'è lunedì e giovedì, per lui, per quella persona...